Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione. Io non mi preoccupo mai di niente. E come mai? Sono un ignorante, ma due o tre cose che so mi bastano. La prima è che sotto il naso abbiamo la bocca, per mangiare più che per parlare. Ah, ho la bocca anch'io sotto il naso, ma le assicuro che mangio soltanto quello che voi siciliani chiamate il pane del governo. Lo so, ma lei è un uomo. E il brigadiere? Non lo so. Io ho una certa pratica del mondo, è quella che diciamo umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie, gli uomini, i mezzuomini, gli ominicchi, i, con il rispetto parlando, piglia in culo, e qua qua qua, pochissimi gli uomini, i mezzuomini pochi, che mi accontenterei l'umanità si fermasse ai mezzuomini, e invece no. Scendo ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, e ancora più in giù, i piglia in culo che vanno diventando un esercito, e infine qua qua qua, che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà a queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Anche lei, disse il capitano con una certa emozione, e nel disagio che subito sentì di quel saluto delle armi scambiato con un capo mafia, a giustificazione pensò di avere stretto le mani nel clamore di una festa della nazione, e come rappresentanti della nazione, circonfusi di trombe e bandiere, al ministro Mancuso e all'onorevole Livigni, sui quali Don Mariano aveva davvero il vantaggio di essere un uomo. Al di là della morale, della legge, al di là della età, era una massa irredenta di energia umana, una massa di solitudine, una cieca e tragica volontà. E come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro e informe, il mondo degli oggetti, così Don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei rapporti umani. E quale altra nozione poteva avere del mondo se intorno a lui la voce del diritto era stata sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cambiato il colore delle parole su una realtà immobile e putrida? Perché sono un uomo e non un mezz'uomo, addirittura un qua qua qua? Perché da questo punto dove lei si trova è facile mettere il piede sulla faccia di un uomo. E lei invece ha rispetto. Da persone che stavano dove sta lei, dove sta il brigadiere, molti anni dietro io ho avuto offesa peggiore della morte. Un ufficiale come lei mi ha schiaffeggiato. E giù, nelle camere di sicurezza, un maresciallo mi appoggiava la braccia del suo sigaro alla pianta dei piedi e rideva. E io dico... Si può più dormire quando si è stati offesi così? Io dunque non la offendo? No, lei è un uomo. E le pare cosa da uomo ammazzare o far ammazzare un altro uomo? Io non ho mai fatto niente di simile. Ma se lei mi domanda a passatempo per discorrere di cose della vita se è giusto togliere la vita a un uomo, io dico, prima bisogna vedere se è un uomo. Di bella, era un uomo? Era un qua qua qua. Bentornati a una nuova puntata di Lucciole delle Tenebre. Sono Valentina. Eleonora. E il nostro super tecnico. Ciao Stefano. Ecco una nuova puntata di, anzi la seconda puntata del nostro ciclo Letterature Mafia. Oggi abbiamo due autori di grande rilievo. E chi sono, Ele? Dici un po'. Insomma, il primo pezzo, il pezzo che abbiamo letto in apertura, dovrebbero conoscerlo un po' tutti. E insomma, penso che abbiate capito chi sia. Se non avete capito, è Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Ci hanno fatto anche un film, guardatelo. Sì, è un film di Damiano Damiani e il libro è stato scritto da Sciascia nel 1961 e possiamo dire che ha una grandissima importanza in termini di letteratura sulla mafia, perché è il primo libro, se possiamo dire, in Italia che parla di mafia in termini non apologetici, che non dicono che la mafia è una bella cosa, ma cerca di spiegare come effettivamente funziona, come lavora. E il pezzo di cui che abbiamo letto è il pezzo in cui il mafioso del paese parla con il capitano, un capitano dei carabinieri venuto dal nord che sta facendo un'indagine sulla mafia. E in particolar modo ricordiamo che il capitano dei carabinieri viene dalla mia città, Parma, quindi cioè è una persona importantissima. E detto ciò, e soprattutto parecchio estranea dalla realtà che si trova di fronte. E detto ciò, Sasha ha scritto molti altri libri, sempre di genere giallo. Un altro particolarmente famoso che parla sempre di mafia, Ciascuno il suo, nel 1966, e anche di questo c'è un film di Elio Petri. Cavolo, ma una persona un sacco coraggiosa, ma io sapevo che in realtà Borsellino c'era rimasto un sacco male per certe sue dichiarazioni, è vero Ele? Ma sì, questo è stata una cosa, probabilmente una pagina non bellissima, diciamo, rispetto alla vita di questo autore, però insomma ne dobbiamo parlare. Il 10 gennaio dell'87 Sasha scrive un articolo sul Corriere della Sera intitolato I professionisti dell'antimafia, in cui insomma fa un discorso molto lungo sull'antimafia a partire dal fascismo e critica duramente il fatto che Borsellino fosse stato fatto procuratore del capo di Marsala. E questa cosa chiaramente a Borsellino non è andata giù, perché essere stato accusato di diventare andare a fare il professionista antimafia per fare carriera, chiaramente non gli era piaciuto. Però Borsellino stesso aveva detto che non riusciva a essere offeso con Sasha perché i suoi libri gli piacevano un sacco. E poi insomma hanno fatto pace. Meno male, va. Comunque adesso, sempre su questo autore, sentiamo uno stralcio di un altro suo libro, Ciascuno il suo. Un notabile che corrompe, che intrallazza, che ruba. Lei a chi penserebbe? Nel paese? Forse nel paese, forse nella zona, forse nella provincia. Lei mi pone un problema difficile, perché se ci limitiamo al paese, anche i bambini che devono ancora nascere possono rispondere alla domanda. Ma se ci allarghiamo la zona, la provincia, viene la confusione, la vertigine. Limitiamoci al paese, allora. Rosello, l'avvocato Rosello. Impossibile. Impossibile che? Che sia lui. Che sia lui a corrompere, a rubare, a intrallazzare. E allora mi scusi, devo dirle che lei campa con una testa nel sacco. No, cioè voglio dire, impossibile che la persona con cui ho parlato volesse riferirsi a lui. Impossibile. E chi è la persona con cui ha parlato? Non posso farne il nome. Ma caro professore, non le ha detto questa persona il nome del notabile, non le ha detto il nome del paese, le ha dato dei connotati che mi credi si attagliano ad esclusione di quei galantuomini che sono già stati pescati e soggiornano nelle patrie galere che so a 100.000 persone, e da questa grande armata lei pretende di tirar fuori il suo uomo, il suo notabile. Per la verità avevo creduto che la persona di cui non posso fare il nome si riferisse a uno del paese, ma se lei mi dice che nel paese c'è solo Rosello... Rosello è il più grosso. Quella a cui più immediatamente si pensa, è il solo che rientri nella categoria dei notaboli, rigorosamente parlando. Poi ci sono i piccoli, e qualcuno può anche metterci me nel mazzo dei piccoli. Ma no! Sì, invece, e forse con ragione. Ma ripeto, Rosello è il più grosso. Lei ha un'idea precisa di quello che Rosello è? Dico nei suoi intrallazzi, nei suoi redditi, nella sua pubblica occulta potenza. Perché di quello che è umanamente è facile averne idea. Un cretino non privo d'astuzia. Uno che per raggiungere una carica o per mantenerla, una carica ben pagata si intende, passerebbe sul cadavere di chiunque. Tranne che sul cadavere del suo zio l'arciprete, naturalmente. So che uomo è, ma non ho un'idea precisa della sua potenza. Lei sarà indubbiamente più informato di me. Lo sono, e come se lo sono. Dunque, Rosello fa parte del consiglio d'amministrazione Furaris, 500.000 lire al mese, e consulente tecnico della stessa Furaris, un paio di 2 milioni all'anno, consigliere della banca Trinacria, un altro paio di milioni. Il tuo interlocutore, messaggero dell'amore, Cupido dell'orsa minore. Dio, come sei bello stasera, non che ieri fossi cesso, ma adesso qui, reginetto di quest'Alpi, sei il mio ideale. Bello sentirti dire certe cose, seducenti e maliziose, ma forse un po' precipitose. Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore. Pensa così come noi, non fa parte della Lega, della Mocotore, che come simbolo ha il cuore della mamma. Chi non ragiona così come noi, farà i conti con la Lega, della della moto, che è finanziata coi baci e con i sentimenti. E lo statuto sta tutto in una sola riga, che dice gioia, fratellanza, cuore, amore, ma mattiamo in una più. Siamo la splendida dimostrazione che dal rispetto della tradizione può nascere un gran partitore. Là, nell'orto della speranza, non faremo differenza tra nord e sud, noi saremo i nuovi Robin Hood della nazione. Pensa così come noi, non fa parte della Lega, dell'amore che come simbolo ha il cuore della mamma. Chi non ragiona così come noi, farà i conti con la Lega, dell'amore che è finanziata coi baci e con i sentimenti. E lo statuto sta tutto in una sola riga, che dice gioia, fratellanza, cuore, amore, ma matamo e nulla più. Fratellanza, cuore, amore, mamma t'amo. Gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma t'amo. Gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma t'amo. Gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma t'amo e nulla più. Ma c'era la mafia, come se c'era. Al principio degli anni 20 del Novecento, Raffadilli è completamente comandata dalla mafia, che si è in tutto e per tutto sostituita a Paperinopoli e allo Stato. La mafia ha imposto il suo codice d'onore, che vale per certo per chi appartiene alla società annoerata, ma detta mancare ai comuni cittadini regole di comportamento quotidiano. Per esempio, per assolvere una sciaratina familiare non ci si rivolge a chi o in privato al maresciallo dei carabinieri, come si faceva una volta, ma al capo mafia, il quale decide a modo solo la soluzione della vertenza e il suo giudizio, una volta pronunciato, è inappellabile. E chi a quella sentenza si ribella rischia quasi sempre la vita, perché la parola del capo mafia è sacra, è vangelo, non può essere contraddetto o messo in discussioni. Le parole che avete appena sentito sono di un altro autore, Andrea Camilleri, che è appunto tratto appunto dal suo libro La Banda Sacco. Andrea Camilleri nasce nel 1925 ed è appunto un altro degli autori come Sciascia che parla di mafia della Sicilia, cioè i suoi libri parlano appunto nel suo personaggio principale, che è quello Montalbano, della cultura e del siciliano. Ma Camilleri ci parla spesso di mafia? No, in realtà no, cioè nel suo personaggio Montalbano, che è un investigatore che fa delle indagini su omicidi eccetera, incontra dei mafiosi, ma ci sono, almeno noi abbiamo trovato, due libri particolari in cui invece Camilleri parla specificatamente di mafia. Uno di questi è appunto questo bellissimo libro che io vi consiglio con amore, è La Banda Sacco, che è appunto una storia verosimile di una famiglia che vive la vicenda della Sicilia dagli anni percorre intorno alla prima metà del Novecento, con anche il ventennio fascista. Il bello di questo libro è infatti che attraverso la storia di una famiglia, appunto i Sacco, Camilleri ripercorre un po' la storia siciliana di quegli anni, quindi il passaggio dalla vecchia alla nuova mafia con la guerra corleonese, e anche la vicenda del prefetto Mori, il prefetto di ferro che fece appunto, cercò di stanare tutti i mafiosi in maniera molto violenta. E il libro appunto parla della storia di questa famiglia che vuole, diciamo, condurre una vita onesta e laboriosa e quindi costruirsi un futuro in modo onesto, ma si scontra con la realtà delle cose, cioè con un sistema mafioso che gli impone di pagare un pizzo e i carabinieri che dimostrano, a cui appunto vanno a denunciare il fatto, che dimostrano tutta l'indifferenza dello Stato di fronte e quindi a questo sistema, e quindi decidono proprio di farsi giustizia da soli e combattere per primi la mafia. Ok, Lele dice che sono troppo lunga, sì, quindi lascia la parola se a lei. Non parlo io. Comunque, scusate. Un altro libro di Camilleri di cui volevamo parlarvi, che parla sempre di mafia, e voi non sapete, che non è in questo caso non è un romanzo, ma è un saggio, in cui analizza praticamente alcune delle parole che compaiono in modo ricorrente nei pizzini di Provenzano, quelli insomma che lui aveva potuto leggere. Tra questi pizzini ci sono delle parole particolarmente che Provenzano usava molto spesso, e quindi Camilleri fa una sorta di dizionario della mafia. Però in particolar modo vi leggo un pezzetto, al sottotitolo mafia. Di questa parola nei pizzini di Provenzano assolutamente non c'è traccia, e non c'è nemmeno traccia nei pizzini che a sua volta riceve. È come se, scusandoci per il paragone, l'amministratore delegato della Fiat e tutti i concessionari Fiat, nelle loro lettere d'affari, non citassero mai la Fiat. Quindi, insomma, questi ci sono una serie di termini che Camilleri analizza, in particolar modo analizzando anche il significato che possono avere per un siciliano, facendolo capire a chi siciliano non è. E adesso la Vale ci dirà qual è la canzone che c'è dopo, visto che l'ha scelta lei. Sì, l'ho scelta visto che oggi è il giorno dell'amore, ho scelto una canzone che parla di due anime gemelle molto particolari. Sulle note di Vinicio Capossela, Il paradiso dei calzini. Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire, beati, i perduti con quelli spaiati, quelli a righe mischiati con quelli a pua? Dove vanno nessuno lo sa. Dove va chi rimane smarrito in un'alba d'albergo scordato, chi è restato impigliato in un letto, chi ha trovato richiuso il cassetto, chi si butta alla cieca nel mucchio della biancheria? Dove va chi ha smarrito la via? Nel paradiso dei calzini si ritrovano tutti i vicini. Nel paradiso dei calzini. Chi non ha mai trovato il compagno, fabbricato soltanto nel sogno, chi si è lasciato cadere sul fondo, chi non ha mai trovato il ritorno, chi ha inseguito testardo rattoppo, chi si è fatto trovare sul fatto, chi ha abusato di napisanno di cloritina, chi si è sfatto con la candeggina. Nel paradiso dei calzini, nel paradiso dei calzini, non c'è pena se non sei con me. Dove è andato a finire il tuo amore quando si è perso lontano dal mio? Dove è andato a finire nessuno lo sa, ma di certo si troverà là. Grazie. eccoci arrivati al momento della nostra bellissima rubrica Buffie. In questo caso, visto che è il giorno di San Valentino, abbiamo fatto subito una connessione, il giorno dell'amore, quindi ovviamente vogliamo parlare di violenza sulle donne. Sembra logico, perché cioè, ovvio che la nostra mente ragiona in questo modo, facciamo paura. Comunque, insomma, visto che l'amore, anzi quello che amore non si può dire, a volte finisce per sfociare in violenza, sentiamo che questo è un tema che comunque sia da trattare, anche in un giorno così sdolcinato e orribile come questo. Sì, si sente che mi piace tantissimo a San Valentino e anche alla Vale, quindi... Tanto che l'altra volta ci siamo rimasti fuori da questa radio. Ci hanno chiuso fuori, quindi lo amiamo tantissimo come giorno. Comunque ora la Vale ci presenta un'iniziativa particolare che si svolge a Bologna in questo periodo. Sì, infatti a questo proposito è iniziato da poco un ciclo di seminari appunto contro la violenza sulle donne, e che appunto avrà luogo tra febbraio e maggio nell'aula 5 di via Zamboni 38 dalle 3 alle 5, ed è praticamente una serie di incontri il 5 febbraio, il 19 febbraio, il 26 febbraio eccetera, dove una serie si alterneranno sociologi, giuristi, filosofi che tratteranno la violenza sulle donne, il problema, per dimostrare appunto che questo problema della violenza è un problema strutturale della società, e l'intento è appunto quello che di indagare ciò che sta dietro, ciò che genera nella nostra cultura questi episodi di violenza. Quindi venite tutti, andate sul sito a vedere il programma. Beh, dopo questa descrizione lampo di Valentina, che ringraziamo, vi lasciamo per quest'oggi. Purtroppo è finito il tempo a disposizione, è finito anche oggi, e molto velocemente vi salutiamo con Mi piacciono le sbarbine degli Schiantos. Comunque dovete ciao Sbarbi! Ciao Sbarbi! Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente, mi piacciono le sbarbine. Mi sento deficiente, yeah, yeah, yeah. Lo so che non conviene, mi piacciono le sbarbine. Ma poi chi si trattiene? Conta il calore. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine, yeah, yeah, yeah. Anche se mi fanno soffrire, mi piacciono le sbarbine. Non c'ho mai niente da dire, mi piacciono le sbarbine. Quel che voglio è solo amore. Tipo senza storia, mi piacciono le sbarbine. M'han fregato la memoria, mi piacciono le sbarbine. Ma l'amore di una sbarba, yeah, yeah, yeah, mi fa andare giù di testa. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Le sbarbine sono carine, con i tacchi, mi piacciono le sbarbine, che mi mandano nei matti. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, yeah, yeah, yes. Lo so che non conviene, no, no, no, no. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Io voglio starci assieme, mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde,